Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Eccoci, eccoci qua, ben arrivati, ben ritrovati in questa calda giornata, del resto è estate, ben arrivati a Easy Pop insieme a Franco Paoletti e ovviamente al Bolognese Volante. E oggi c'è praticamente, anche oggi abbiamo una bella e fresca puntata di Easy Pop di domenica 6 agosto 2023, ci stiamo rapidamente avvicinando praticamente anche alla puntata ferragostiana, cioè alla nostra compilation Hit Summer, vero regia? Lei si sta preparando? Buongiorno, buon pomeriggio, beh è caldo ma non caldissimo perché è rinfrescato, grazie a Dio. Sì, la puntata del 13 agosto, la Compilation Dance 2023 è già pronta, Paoletti. E allora noi siamo anche pronti per dare il via alla puntata di oggi, direi di incominciare immediatamente con un personaggio un po' particolare, nel senso che la stoffa c'è, si è fatto valere in diverse situazioni musicali, per esempio lui si è messo in luce a X Factor arrivando fino alle audizioni finali e poi anche vince Area Sanremo nel 2023, poi non ce l'ha fatta. Però si è messo veramente in luce e si sta puntando molto su questo personaggio che si chiama Motus. L'abbiamo scelto per aprire la puntata di oggi, appunto, di Easy Pop Estate. Quindi direi di incominciare con Motus che ci presenta Mano di Pezza. Stanotte voglio stare solo con te, voglio ordinare il mondo che c'è nella mia testa vuota che riempi solo parlando a vuoto e chiedimi senti no. Certo ti aspetto qui però chissà dov'è che vai tu che quando parlo spiacci per ridi e dopo non ci parliamo più no. E chissà poi che faccio tra i due scrivo frasi ma voglio le tue. Sono stupido ti ho salutata io stesso pensando che stanotte voglio stare solo con la mia testa, un foglio stropicciato in una mano una penna, ma aspetta forse è stato fatto tutto di fretta. Se sembra fatta di pezza, ma adesso voglio stare solo con la mia testa. Un foglio stropicciato in una mano, una penna, ma aspetta. Forse è stato fatto tutto di fretta. La mano mi accarezza e sembra fatta di pezza, ma penso a te. Prenderò tutto il tesoro se lo ritroverò. Ma il mio vascello è fatto male, che c'entra l'acqua mentre ne affondiamo. Prendo l'amo da pesca. Ok. Come fai tu, e ti prego fai vivere me così. La mia testa mi sembra risponda più. Se vuoi parlo coi suoni mentre sto qui. E tu lo sai, e lo so che il mare porta male, fatica. Pensa cosa porta questo mare, la vita. Voglio un'altra notte da passare in camicia, capito che stanotte voglio stare solo con la mia testa. Un foglio stropicciato in una mano, una penna, ma aspetta. Forse è stato fatto tutto di fretta. La mano mi accarezza e sembra fatta di pezza, ma adesso voglio stare solo con la mia testa. Un foglio stropicciato in una mano, una penna, ma aspetta. Forse è stato fatto tutto di fretta. La mano mi accarezza e sembra fatta di pezza, ma pensa che venderò a poco prezzo la mia anima. Voglio ballare solo in camera, non posso più giocare a farcela. Che poi come posso spiegartelo meglio se non dicendoti che stanotte voglio stare solo con la mia testa. Un foglio stropicciato in una mano, una penna, ma aspetta. Forse è stato fatto tutto di fretta. La mano mi accarezza e sembra fatta di pezza, ma adesso voglio... Motus e la sua mano di pezza in questa trasmissione numero 31, Paoletti. Mancano circa 20 trasmissioni alla fine dell'anno, incredibile. Sembra ieri che abbiamo iniziato con la puntata numero 1 di quest'anno. Sì, la 31esima puntata di oggi, domenica 6 agosto 2023, e velocemente, visto che appunto il tempo è sempre meno, vi presentiamo appunto Motus, come dicevo poc'anzi, pseudonimo di Mattia Perelli. Lui nasce a Taranto nel 2021, quindi è giovanissimo e ha già un sacco di esperienza. Tra l'altro Tumulto, oppure Movimento, questo è il nome che si è scelto Motus perché appunto in latino significa questo, e lui appunto si crede una sorta di terremoto musicale. Va bene, allora, come dico io, se sono rose fioriranno. Noi ci è piaciuta molto questa sua selezione musicale, Mano di Pezza, il brano per l'estate. Tra l'altro lui, attenzione, fa anche il buskers, quindi chissà che non lo troviate in giro, magari un po' a Ferrara, un po' a Bologna, insomma in questi festival. A questo punto, dicevo, cambiamo pagina e andiamo con il prossimo personaggio. Si chiama Edo da Campo, ci presenta Cambiare l'acqua ai fiori. Me lo è scritto sulla prima pagina del nostro libro che non ho mai letto. Non assomigli più a nessuno, hai detto, da quando ti amo. Ma stavolta io ti lascio andare, hai le valigie piene di ricordi, pronta per partire. Spero che non ti troverai male, io resto qui come sempre per sempre ad aspettare, ad aspettare. E sono morti, morti. Oh, ad aspettare, aspettare. Proprio per questo io ti lascio andare. Hai le valigie piene di ricordi, pronta per partire. Spero che non ti sempre ad aspettare. L'altro giorno ho dato l'acqua ai fiori e sono morti. L'altro giorno ho dato l'acqua ai fiori e sono morti. Ad aspettare. Ma lo sa Paoletti che il problema dell'acqua ai fiori con l'estate è sempre tale, perché non si sa mica mai qua. Comunque molto intimistico questo brano che io mi consento di dedicare a Elena, la farmacista di Budrio, a cui queste tematiche, queste musiche piacciono molto, vero Paoletti? Sì, insomma, diciamo, le musiche un po' più riflessive, cantautoriali, sono più consone a lei, molto riflessive. E a questo punto invece parliamo un attimo di questo personaggio, Edo da Capo, scritto proprio così, un po' come iniziare da capo. Pensate un po' nella storia di questo pezzo, Cambiare l'acqua ai fiori, praticamente un brano incompiuto, ma non è stato fatto intenzionalmente, perché l'alluvione che ha colpito la Romagna lo scorso maggio ha di fatto distrutto lo studio di produzione dove appunto lavorava Francesco Pons, che è il praticamente chi ha scritto questo pezzo insieme a Edo Campo, che praticamente lavoravano a un album. Praticamente tutto è stato alluvionato e si è salvato solo questo pezzo, e da qui si è appunto si è iniziato a rilavorare. Devo dire, chi ben comincia è a metà dell'opera, questo brano dice tutto. Mi è piaciuto molto per la delicatezza, insomma, l'intimità di questo brano, devo dire, racconta tutto. Se son rose fioriranno anche per lui, devo dire, uno stile cantautoriale davvero ineccepibile. Che dire, che attendiamo buone nuove anche da Edo da Capo, si chiama proprio così. A questo punto invece arriva un altro personaggio, si chiama Cesca e ci presenta Milano. Allontano le pare, tutto poi normale. Ricordo quando mi chiedessi cattedrale. Milano da qui sopra non si può guardare. Restiamo un po', distrutta per rifarlo uguale, non lo so, ma nevermore. Io tutto sembra uguale, la metro può scompare, so io che mi sento male, grazie al cielo ci può stare, sono troppe le scale, l'ascensore non c'è, e stavo lasciando me, su un divano con te, non pensare più a niente, ordinare un po' che l'altra notte non va, mi sveglio ancora in città, ma dimmi tu le cose che va. E saliremo insieme sulla cattedrale, Milano da qui sopra non ci può guardare, restiamo un po'. Testi autobiografici per questa ragazza che si fa chiamare Cesca, C-E-S-K-A. Il suo nome d'arte, insomma, non so se è così, è volutamente cambiato un po' di aria, insomma, un po' come dire, dell'est, però insomma ci piace questo suono musicale che ha scelto. Non è il suo nome di battesimo, cioè il finale del suo nome di battesimo, ma appunto è qualcosa di più che ha studiato lei, ha voluto così di un diminutivo di Francesca, se non sbaglio. Infatti lei si chiama Francesca Presto, ha 22 anni, vive a Reggio Calabria, ma ormai è, diciamo, figlia del mondo, perché insomma come artista già gira, ha girato in diverse scuole e conservatori, suona, e che dire, che lei è arrivata al suo secondo singolo, devo dire un po' particolare, però diciamo che la sua edizione è perfetta, mi è piaciuta per questa, ha un bel suono la sua voce, e quindi anche per lei si sono aperte un po' delle porte degli studi, tant'è vero che questo brano è distribuito dalla Sony, che non è mica male. Milano, quindi il suo singolo che vede praticamente lei che guarda Milano e ha tutte queste impressioni. Bene, dopo Cesca noi a questo punto andiamo avanti con Germano Parisi e ci presenta Vortice. Presente, sanno di nostalgia e tirano all'indietro, mai dimenticherò quel gioco troppo duro, io così piccolo e tutto intorno buio, le spalle contro il muro. Resistere è un'impresa, ma in me una forza nuova, sorpresa inaspettata, tanto che mi rialzai, colpito e barcollante, ma finalmente io, sorretto da certezze. Soffia in me stanotte, non fermarti mai, stringimi più forte, non andare via, vortice, senza limiti, resta qui, fammi vivere. Vento che mi urli in faccia, spazza il mio dolore indietro, portami con te nel posto che merito da tutto il tempo. Sarò quell'uomo che volevi, che avevo ormai dimenticato, con la purezza del bambino, con la rabbia di un guerriero. Soffia in me stanotte, non fermarti mai, stringimi più forte, senza limiti. Resta qui. Germano Parisi e il suo vortice, Paoletti. Adesso ci parlerà di questo artista. Sì, sì, certo, è il mio compito quello di presentare, farvi conoscere e fare una piccola scheda così conoscitiva, un curriculum per questi personaggi che bazzicano nel mondo appunto della musica. Per quanto riguarda Germano Parisi, lui è un cantautore, producer, vocal coach con all'attivo diverse partecipazioni nei talent nazionali con appunto con altri non dico pseudonimi, però insomma con altri nomi probabilmente, con The Voice, X Factor, Amici, Sanremo Young, Castrocaro, insomma li ha fatti tutti. Poi dopo un'assenza sul mercato discografico ritorna con questo Vortice, che è il suo terzo singolo ufficiale. Devo dire che effettivamente ci ha colpito anche questo singolo, che è proprio particolare, ipnotico. Infatti dice, no, questo vortice e così è molto, sembra uno di quei mantra, no? Si chiamano così, vero, regia? Sì, mantra esistono, non so se è quello, non so se è quello che lei ha in mente, però i mantra esistono. Ma quei om, e quindi vortice, ripetuto all'infinito. Bello, poi del resto ripetete, you want, si dice così anche. Vabbè, non vado a impelagarmi in discorsi un po', come dire, dove sicuramente vado a sbattere. Andiamo avanti con Naeli. Ci presenta Berlino. Restiamo a guardarci ancora un po', al confine tra un incendio, domani finiremo in un falò. Conosco tutti i tuoi movimenti, ma non mi parli da giorni e gli occhi spenti. Quando ti chiedo cos'è, rispondi niente. È un casino vuoto nella tua mente, frasi non dette, persi in un abbraccio. Perdo se ti lascio andare, ho due birre in frigo. Sali, non te lo chiedo. Scrivo mille pagine sul finestrino, lacrime. Guido verso casa, sole in tasca, il tuo accendino rosa. Hai ragione tu, questa storia è lunga. Hai ragione tu, non ci capiamo più. Restiamo a guardarci ancora un po'. Ho il tuo respiro tra le dita, chissà se un giorno mi ricorderò di tutti quanti i nostri movimenti. Litigare per gioco solo per ritrovarsi, ci leggevamo negli occhi a luci spente. Cosa rimane adesso il nostro casino come Berlino? Scrivo mille pagine sul finestrino. Andare a due birre in frigo. Sali, non te l'ho chiesto. Naeli con la sua Berlino. In sottofondo ricordo a coloro che si sono collegati adesso sui 103.10 in FM o in streaming, che siete all'ascolto di Radio Città Fucico. Questa trasmissione che state ascoltando è Easy Pop, chi vi parla è il Bolognese Volante, e dall'altra parte ovviamente c'è Franco Paoletti, che scalza ovviamente la regia per parlare di questo personaggio che si fa chiamare Naeli. Lei in realtà è una giovane cantautrice di Latina che vive però adesso a Roma. Il brano arriva dopo un anno di gestazione, diciamo, anno insomma che le ha dato diverse soddisfazioni, nuove produzioni e premi a vari come dire, contest. Nel 2022 vede la vittoria a Radio Sonica Contest e finisce con la partecipazione a Spaghetti Unplugged di Dajen D'Amico, che appunto la prende sotto la sua ala protettrice e le fa aprire il concerto di Rocco Hunt a Latina. I riscontri ci sono, tant'è vero che adesso la nostra Naeli sta praticamente lavorando al suo primo EP, che uscirà a settembre. Lei è di Latina e dice: io ho sempre respirato ovviamente grandi aree nell'aria, appunto c'era tanta musica e di qualità, perché ci sono tanti personaggi di Latina, insomma, che si sono trasferiti poi a Roma e fanno dell'ottima musica. Meno male che c'è musica nell'aria, non ci sono delle rose, Paoletti? Infatti, cos'era l'aria del sabato sera? Ma insomma, oggi è domenica e ho fatto una fatica a svegliarmi stamattina. Comunque, queste cose agli amici non interessano. Vediamo di stringere, di andare con prossimo personaggio, Licciardi, Emilia Nascosta. È solo un altro lunedì di merda, di parcheggi umidi e corrieri e sedia, in un mare di provincia di cemento e nebbia. È solo un altro lunedì di merda. E mentre un altro cane mi abbaia contro, mi chiedo quale sia il mio posto nel mondo. A denti stretti con il freddo in tangenziale, con la terra sotto i piedi che non smette di tremare. Emilia nascosta, mi fai paura. Emilia nascosta, mi fai paura. Emilia nascosta, ti muoio tra le braccia. Emilia nascosta, mi spacchi la faccia. Arriverà la neve a prendersi tutto. Arriverà la neve a chiedere il suo conto. Licciardi con Emilia Nascosta. Paoletti a microfoni spenti si chiedeva chi ha scelto questa canzone. L'ha scelta la sua redazione musicale, Paoletti. Invece noi stiamo scherzando ovviamente, giusto, è un gioco tra me e la regia. Quindi praticamente abbiamo Licciardi in sottofondo, Emilia Nascosta. Ero curioso di conoscere questo pezzo e capire di che cosa potesse scrivere questo artista. Emilia Nascosta appunto fa parte di quel cantautorato internazionale come Bob Dylan, oppure altri cantautori alla Lucio Dalla, alla De Gregori, se così vogliamo dire. E infatti Licciardi è ispirato da questo stile di cantautorato, magari riammodernato con altri personaggi più vicini a noi, e quindi insomma altre band come insomma più vicine a noi, insomma emiliane, band emiliane intendo. Allora, Licciardi sta lavorando al suo nuovo album, ha un suo album già all'attivo, sta lavorando al nuovo. Nel contempo ha fatto parte di diverse tribute band di blues rock, e lui, anche se catanese, è di stanza proprio qui a Bologna, e magari l'abbiamo visto con altre band così a suonare, perché no, insomma, a noi ci è piaciuto, saremo interessati anche ad ascoltare altro materiale per capire, insomma, qual è la sua direzione musicale. Io direi che a questo punto, dopo Ricciardi, abbiamo l'ultima l'ultimo artista che la regia ha prescelto. Anima, si chiama così, Anima con la Y, ci presenta Baby Doll. Passano i giorni e non ti sento da un po'. Tu che eri il mio trappo ed io la tua baby doll. Non voglio ballare e guardare il mio phone. Baby vieni dai che se no poi mi sento alone. So che non ci sentiamo da un po'. Luci per la strada qui mi sembra Tokyo. Non mi manca nada tranne te qui ogni notte. Sfiacceremo su un Ferrari quando farò sold out. Giuro sono loyal. Baby, non mi dire cose che dici alle altre, vedi. Sono nel mio ego trip e qui non ci entri. Se non hai sogni oltre a quei gioielli, quelle Fendi. E dai, vieni al club senza dito spento. Io mai avuto ste vibe, sei con me Asensio. Qui passano i giorni e non ti sento da un po'. Tu che eri il mio trappo ed io la tua baby doll. Non voglio ballare e guardare il mio phone. Baby vieni dai che se no poi mi sento alone. Tu che prima odiavi ora mi guardi ti sta bene. Sto con le mie bestie giriamo ogni quartiere. Ho sempre voluto farcela in questo game. Scrivevo i miei primi pezzi tu stavi alla play. Ora voglio perdermi dentro queste serie. E se tu vieni qui non finirà mai bene. Ma sta vita è un film e anche se non conviene. Tu vienimi a prendere io porto. Anima e la sua Baby Doll, una canzone decisamente leggera e estiva in tema del film Barbie che adesso in questo periodo nelle sale cinematografiche. Siamo un po' di corsa Paoletti perché siamo andati un po' lunghi. La invito a stringere per chiudere questa prima parte. Beh sì, chiudiamo così perché insomma non c'è poi molto altro da dire. Anima è prodotta da Tradez, è praticamente appena uscito questo singolo appunto che si intitola Baby Doll. Vi invito a visionare il suo video dove c'è insomma questa festa tra amiche tutte in Baby Doll, e devo dire che insomma così la trovata non è diciamo eclatante, però ci sta tutta. Anima con Baby Doll. Su questo pezzo noi facciamo un piccolo break pubblicitario, ma rientriamo fra pochissimo con altre nuove canzoni. Non andate via. Qui passano i giorni e non ti sento da un po'. Tu che eri il mio trappo ed io la tua baby doll. Non voglio. State ascoltando Easy Pop su Radio Città Fujiko. Presenta Franco Paoletti. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando. Al di là del vetro ovviamente c'è il nostro onnipresente Bolognese Volante che appunto mi dà la linea per proseguire appunto questa cavalcata all'interno appunto di questo programma dove ascoltiamo circa una quindicina di brani per 14? Per la precisione sono 14, 7 nella prima parte, 7 nella seconda parte. Beh, tante volte sforiamo, non sia così fiscale, la prego. E quindi praticamente diamo un'occhiata alle uscite discografiche indipendenti e vediamo che cosa succede, quali sono gli artisti più interessanti a nostro parere. E iniziamo con Johnny Scandal, scritto proprio tutto attaccato. È un personaggio di cui avevamo già parlato e abbiamo già avuto tempo appunto di ascoltarlo con un singolo. Ritorna praticamente con il singolo dell'estate, beh, è uscito un po' in là, però insomma un singolo davvero curioso, si intitola Tranne me. Io direi di ascoltarlo immediatamente. Ho voglia di vederti, che ne dici se stacchi da lavoro e poi passi da me? E qua fa troppo caldo, forse è meglio che ci spogliamo e ci baciamo. Dimmi perché senza te spero, dico davvero, la prima con cui faccio in serio. Sì, sei la più bella ma del mondo intero, e mi fai volare come aereo al serio. E stasera, sei tu la più bella di questa e di quella e di tutta la Riviera. Johnny Scandal e la sua, come si chiamava, Paoletti? Vediamo se è pronto. Tranne te, il brano che abbiamo ascoltato. Io sono sempre sul pezzo e ascolto sempre con grande curiosità tutto. Poi del resto facciamo questo appello alle etichette, soprattutto agli studi appunto che curano gli artisti: noi ascoltiamo tutto, non buttiamo via niente, e poi insomma insindacabile giudizio appunto della nostra redazione, suoniamo quello che riusciamo a fare. La sua redazione musicale seleziona, Paoletti, puntualizza. Sì, esatto, io puntualizzo sempre, non me ne vogliono coloro che sono esclusi. Voi continuate a mandare del materiale, noi lo scruteremo e valuteremo. E appunto, tanto per dire, Johnny Scandal è un personaggio che avevamo già trovato nel corso del tempo, un album al suo attivo, una partecipazione ad Amici, al suo programma appunto quello di Maria De Filippi, e poi una canzone scritta a quattro mani insieme a Max Pezzali per appunto Max Pezzali. Devo dire, è un curriculum davvero interessante, comincia a farsi interessante, una voce c'è, e poi anche questo nuovo stile, insomma, un po' rap, un po' cantautorale, che cattura, diciamo così. A questo punto invece il prossimo personaggio, Cavalera, ci presenta Anni. Tra le nuvole del mare, con le mani cerco te, ma mi perdo nei tuoi guai che sono i miei, non prendertela così. Perché io cerco solo di raccontare, se posso farmi male, solo per sentire questa vita spesso grigia, a cui tu dai colore. E trovo le parole per cantare del tuo amore nonostante gli anni e la vita che avanza, tu che non smetti di cercarmi. l'ultima sigaretta prima di addormentarti e trovo l'ultima sigaretta prima di addormentarti ed è già l'alba e tu te ne vai, io qui da solo coi fatti miei. Neanche il tempo di partire ed è già tardi, la solita routine che io provo a decifrare, interpretare, accoglierla nel suo particolare, perché io cerco. Interessante cantautoriale Cavalera con un brano che abbiamo scelto, anzi ha scelto la redazione musicale in mezzo ad altri di un EP. Adesso Paoletti ci descrive il tutto. Sì, in realtà va detto che questa Anni è una selezione estratta da un EP per quanto riguarda appunto questo personaggio che si chiama Cavalera. Non è nuovo appunto a incisione, scrive canzoni insomma da molto tempo, però fa il libraio, però della musica non può farne a meno. Possiamo dire che questo è estratto da questo EP che si intitola Tra le onde. Diciamo che quello che abbiamo estrapolato noi non è forse il brano che praticamente adesso in questo momento sta ruotando, però insomma sono sei bei pezzi. Noi abbiamo estratto la prima selezione, la track list, che è appunto questa, ma via via nel corso delle trasmissioni sicuramente ascolteremo anche qualcosa da questo EP che ci pare molto molto interessante. Tra l'altro, per più attenti delle trasmissioni musicali, sicuramente si ricordano di averlo visto al concorso Primo Maggio Next, appunto sul palco del Primo Maggio, se non sbaglio. A questo punto insomma io direi di voltare pagine. Ci ascoltiamo un gruppo che ritorna alla musica, si chiamano Lost e ho detto tutto, con il loro nuovo singolo si intitola Siamo persi. Fondo Ed eccoli qua, abbiamo ascoltato anche i Lost e la loro Siamo persi. Paoletti, ci descriva un po' il brano, su via. Ma come, non si ricorda dei Lost? Lei? Come no? Allora, per quanto riguarda i Lost, voglio ricordarti voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che i Lost sono stati tra le band più influenti degli anni 2000. Hanno ottenuto diversi riconoscimenti negli anni, appunto, che vanno a cavallo dal 2000 al 2010. Vinsero un MTV Europe nel 2009, se non sbaglio, e poi tanti DVD di platino, dischi d'oro, eccetera. Hanno collaborato con i Good Charlotte e poi hanno cavalcato veramente tutti i palchi italiani. Furono un grande successo, soprattutto per i teenager di allora. Bene, i Lost sono tornati con un sound veramente più elettrico, che così da vicina, che si avvicina molto alle sonorità più punk rock, insomma, ad oltreoceano. Che dire, che sono ritornati con appunto questo nuovo singolo che siamo andati ad ascoltare, ed è curioso ascoltare appunto il tutto non in inglese, però in italiano, cantato in italiano appunto. Complimenti ai Lost che licenziano un nuovo album, questo era Siamo persi, il pezzo. A questo punto direi di voltare pagina e arriva Numa che ci presenta Nello Stivale. Con la nuova maestra ripassiamo la minestra, e mentre gira la giostra la storia è sempre la stessa, cambia il punto di vista e finisce la messa, è tutto come l'uva passa. Ma la politica è polemica, mio nonno quando predica sembra il prete la domenica, ma domenica è lontana, in America è carnevale, tira un po' di tramontana nella piazza digitale, quattro schiaffi e una carezza, il pallone nella pozza, questa volta serve il VAR. E no, non si può! Chi scende, chi sale, chi bene e chi male, siamo tutti coi piedi nello stesso stivale, chi vive, chi muore, chi ha l'ombra e chi ha il sole, siamo tutti coi piedi nello stesso stivale. Chi si è visto, si è visto, e chi l'ha visto il posto fisso, e se sparisce il crocefisso, Rete 4 fa il processo, è una serie di successo. Ma il successo è una puntata, il successo è una puttana, e a chi non è successo di pisciare la mattina, tre colori a una bandiera, di nascosto una preghiera, è una vecchia novità. Ricordati che devi morire! Chi scende, chi sale, chi bene e chi male, siamo tutti coi piedi nello stesso stivale, chi vive, chi muore. Numa, Nello stesso stivale. Beh, Paoletti, a me ricordava in maniera pazzesca un certo Rino Gaetano, ma vediamo cosa ne pensa Paoletti. No, io confermo, sì, mi ricorda tutta quella Roma degli anni 70-80 che si vedeva anche in TV, la Ferri, chi era? Gabriella Ferri, no? Sì, mi ricordo forse lei e comunque tanti altri appunto personaggi di quel periodo. Nato tra le campagne di Santo Oreste, cresciuto nel bar del paese, con profonda e sottile ironia si diverte a giocare con i luoghi comuni, a stanare quelle frasi senza tempo che si dicono spesso e non invecchiano mai. Lui si chiama Lorenzo Pompili, in arte Numa, cresce a Roma e nel 96 e da sempre appunto vive a Santo Oreste, una cittadina appunto della provincia romana. Intraprende giovanissimo la strada della poesia, vincendo alcuni concorsi dialettali del Lazio, ha vinto il premio appunto Scalpellino, e poi nel periodo adolescenziale intraprende lo studio del canto, della chitarra, delle tastiere, e fonda una band che si chiama The End, e poi si fa conoscere via via, la sua popolarità così si espande, e nel 2018 prosegue la sua carriera come solista col nome appunto di Numa, e via via insomma riesce a essere sempre finalista in questi concorsi, specialmente a Musicultura, per 2 anni consecutivi. Nel 2021 è tra i vincitori del premio Mia Martini col brano Nanghilè e Babà. Nel frattempo appunto inizia a scrivere ad alcune poesie e poi si dedica al suo album, premio Trilussa se non sbaglio per lui. Nel 2022 esce il suo album Chiacchiere da Bar, e da qui insomma la sua popolarità esplode. Nel 2023 è diventato anche uno spettacolo teatrale che sta portando insomma in giro per lo stivale. Infatti il pezzo che abbiamo ascoltato è estratto da appunto questo album. Nello stesso stivale si titola il pezzo, sulla playlist è sbagliato, ma dopo lo correggiamo. Bene, a questo punto invece, dopo Numa che ci ha presentato nello stesso stivale, abbiamo Tocci, ci presenta Guarda fuori piove. Esco solo di casa, mi faccio un giro in macchina, giro per le strade e sento musica raffica. Il bar a Brezza ricoperto di gocce d'acqua, cadono a tempo di musica classica. Sì, queste canzoni mi ricordano te, rossa con gli occhi marroni e quel profumo Chanel. Chiudo gli occhi e quasi mi sembra di averti con me, faccio il tuo numero sull'iPhone solo per dirti che guarda fuori, piove, possiamo fare l'amore. Guarda fuori, piove, possiamo fare l'amore. Ore, ore, ore, ore, basta litigare, farti amare, lo farò come piace a te. Resto ancora più a guardare se c'è una stella che cade. Confido in un desiderio, solo quello mi rimane. Cado in queste note dolci, non mi riesco più ad alzare. Gravito nei miei pensieri, non ci riesco a non pensare. Sì, queste canzoni mi ricordano te, rossa con gli occhi marroni e quel profumo Chanel. Chiudo gli occhi e quasi mi sembra di averti con me, faccio il tuo numero sull'iPhone solo per dirti che guarda fuori, piove, possiamo fare l'amore. Ore, ore, come piace a te. Guarda fuori, piove, possiamo fare l'amore. Ore, ore, ore, ore, basta litigare, fatti amare, lo farò come piace a te. Vieni qui, baby, spogliati, voglio vederti, adesso abbracciami. Vieni qui, spogliati, voglio vederti, adesso abbracciami. Guarda fuori, piove, non possiamo fare l'amore. Ore, ore, come piace a te. Guarda fuori, piove, possiamo fare l'amore. Ore, ore, ore, ore, basta litigare, fatti amare, lo farò come piace a te. Eccoci qua, Tocci, nome d'arte per questo cantautore che ha 20 anni, giovanissimo, e devo dire che c'è qualcosa di speciale, perché lui si sta specializzando nel corso di dizione e di portamento, ma non solo, anche così sta studiando canto, e il che è curioso perché quest'estate abbiamo avuto questo dibattito tra l'autotune, no, è vero, regia, lei ha seguito, non ha seguito? No, non so neanche cosa sia l'autotune. L'autotune, questo sdoppiamento della voce, insomma, che ti distorge un po' la voce. Sì, c'era Paolo Meneguzzi contro, non so se era Fedez o qualcun altro, forse i nostri amici ascoltatori possono messaggiarci e appunto correggerci. Forse non era Fedez, ma era Bruno, non so, qualcun altro. Comunque l'artista, oltre a specializzarsi in canto canore, canto canoro, scusate, lui praticamente sta portando avanti un progetto davvero interessante e appassionante. Deriva da praticamente una così un progetto che prosegue quello che era insomma in origine una band, e che dire, che praticamente ci piace, perché questo nuovo stile che mescola insomma il pop rock con il canto tradizionale, così piace a tutti e soprattutto piace alle nuove generazioni. Detto ciò, regia, viene a trovarci un personaggio che è dagli anni 80 che sta spopolando, una voce così particolare e una storia particolare, Gary Lowe. Y la gente no te para de admirar. No te digo cómo está mi corazón. Tú lo sabes ya, eres mi tentación. Piña, sé que te quiero. Piña, al ser sincero. Piña, loco estoy por ti. Piña, tu boca rosa. Piña, tu cara hermosa. Piña, no veo más que a ti. Mi ricordavo You Are Danger oppure altre cose di Gary Lowe, ma qui direi che c'è stato un deciso cambio, la collegiala anche, sì, un deciso cambio di passo. Cosa dice Paoletti? Ma in realtà è un cambio di sonorità, perché questo brano è una versione rivisitata del suo pezzo Nina, che era del 1985. Qui ha riarrangiato proprio gli arrangiamenti, se così vogliamo dire, insomma un po' la parte musicale, e devo dire che è molto molto bello. Questa sonorità sta praticamente spopolando e sta praticamente così aprendo di nuovo le porte al successo di Gary Lowe, che sarà in tournée, perché riprende una tournée mondiale, parte dalla Grecia via via e poi insomma tutta l'Europa, per arrivare anche nei paesi oltreoceano. Detto ciò, regia, abbiamo ancora un pezzo da ascoltare. Mike Atom ci presenta Future Force Rework 2023. chiama Mike Atom, nato nel 75 a Milano. La sua passione per la musica lo porta, insomma, a esibirsi nella maggior parte dei club e delle discoteche più importanti, non solo di Milano. In tutti questi anni ha potuto lavorare con artisti veramente splendidi come Ralph, Killer Fab, Mario Più, Franchino, DJ Dado, il Principe Maurice e tanti tanti altri che adesso non ricordo. Ma Zoom Lab nasce nei 2000, se non sbaglio, e insieme a lui, insomma, dà alle stampe tanta buona musica che, insomma, è da clubbing, bei pezzi come quelli appunto che abbiamo ora in sottofondo, insomma, ne sono la prova. Allora, questo pezzo l'ho scelto io, in verità, non la sua redazione musicale, perché mi serviva per lanciare la Compilation Dance Estate 2023, che andrà in onda domenica 13 agosto. E già noi qui vi daremo gli auguri di buon Ferragosto, perché appunto domenica prossima non saremo in diretta, ma avremo la Compilation Dance. Ormai ho perso il conto di quante siano, Paoletti. Ma saranno una decina, super giù, sì, almeno una decina. Allora, Franco Paoletti vi ringrazia per l'ascolto, vi rinnova l'appuntamento, ovviamente non fra 7 giorni, ma fra 14 giorni. Fra 7 giorni ci sarà, insomma, questa spettacolare compilation a cura della redazione, ma soprattutto del Bolognese Volante, che insomma spinge cursori, quant'altro. Abbiamo creato un mostro, ne siamo consapevoli, però vi beccherete questa compilation. Bene, come al solito termina qui Easy Pop, questa puntata numero 31 di domenica 6 agosto. Speriamo di avervi trattenuto in buona compagnia per quest'oretta spensierata. Vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko sulle frequenze dei 103.1. Vi lasciamo quindi alla Compilation Dance. Bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti, bye bye. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.